Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Tre giorni dopo, sera la fine di giugno, le azioni del Nord erano salite di 15 franchi e, dato che l'altro mese ne aveva comprate 2000, Federico si trovò a guadagnare 30.000 franchi. Quella carezza della fortuna gli ridiede fiducia. Per dimostrare che niente poteva metterlo in imbarazzo, intervenne uno dei soliti pomeriggi dalla signora D'Ambreuse. A poco si venne a parlare delle grandi imprese industriali, delle ferrovie e del carbon fossile. E D'Ambreuse disse sottovoce a Federico: «Non è poi venuto per quella nostra faccenda». Federico addusse una malattia, ma rendendosi conto che la scusa era troppo idiota, «fra l'altro ho avuto bisogno dei miei fondi». «Per comprare una carrozza?» disse alla signora D'Ambreuse che gli passava accanto con una tazza di tè in mano, e stette qualche momento a fissarlo, la testa un po' girata sulla spalla. Lo credeva l'amante di Rosanette, l'allusione era chiara. Parve anzi a Federico che tutte le signore da lontano lo guardassero sussurrando. Per capire meglio quel che stavano pensando, si avvicinò a loro. Dall'altra parte del tavolo, vicino alla signorina Cecilia, la nipote del signor D'Ambreuse, Martinon stava sfogliando un album. Erano litografie di costumi spagnoli. Ripeteva ad alta voce le didascalie: «Donna di Siviglia, giardiniere di Valenza, picador andaluso», e una volta, arrivando fino in fondo alla pagina, continuò con lo stesso tono: «Jacques Arnoux, editore. È un amico tuo, no?» «Proprio così», disse Federico, urtato dal modo della domanda. La signora D'Ambreuse intervenne: «Già, ricordo che un mattino lei era stato qui per una casa, mi sembra. Sì, per una casa che apparteneva a sua moglie», il che voleva dire: «È la tua amante». Federico arrossì fino alle orecchie e D'Ambreuse, che sopraggiungeva in quel momento, aggiunse: «Sembrava anzi che lei si interessasse molto a loro». Queste ultime parole finirono di metter fuori sesto Federico. Pensava che il suo turbamento fosse visibile e tale da confermare i sospetti, quando D'Ambreuse gli si fece più vicino per dirgli con aria grave: «Mi auguro che non ci faccia degli affari con quel signore». Federico negò con reiterate scosse del capo, senza capire che il capitalista voleva dargli un consiglio. Aveva voglia d'andar via, ma lo trattenne la paura di sembrare vile. La voce di Martinon lo raggiunse: «A proposito di Arnoux, fra i nomi degli indiziati per le bombe incendiarie ho letto quello di un suo impiegato, Senecal. Non sarà mica il nostro Senecal». «È proprio lui», disse Federico. Martinon, a voce altissima, aveva ripetuto: «Ma come? Proprio il nostro Senecal!» Gli rivolsero allora domande sul complotto. Dato il suo posto alla Procura della Repubblica, doveva pur aver qualche notizia. Confessò di non averne. Il personaggio, del resto, lo conosceva pochissimo, lo aveva visto due o tre volte al massimo. In definitiva, pensava che fosse un poco di buono. Federico, indignato, protestò: «Ma niente affatto, è una persona molto onesta!» «Veramente, signore», disse un ospite, un proprietario terriero, «non si può essere insieme delle persone oneste e dei cospiratori». Un amministratore pensò bene d'aggiungere: «Io, signore, se sapessi che mio fratello è un cospiratore, lo denuncierei». Federico invocò il diritto d'opposizione e, ricordando qualche frase di Delorier, tirò in ballo Blackstone, la dichiarazione dei diritti in Inghilterra e l'articolo 2 della Costituzione del 91. Era in virtù di tale diritto, fra l'altro, che era stato deposto Napoleone, e poi era stato riconosciuto nel 1830 e scritto proprio in cima alla carta. D'altra parte, se un sovrano non tiene fede al patto, giustizia vuole che lo si rovesci. «Ma è terribile!» esclamò la moglie di un prefetto. Il marcio di quei vecchioni lo esasperava, e trascinato dal coraggio spavaldo che si impadronisce a volte dei più timidi, attaccò i finanzieri, i deputati, il governo e il re, prese le difese degli arabi, le sciocchezze che diceva non erano poche, alcuni lo incoraggiavano ironicamente: «Ma bravo, continui!» Altri invece mormoravano: «Diavolo, che razza d'esaltato!» Alla fine gli sembrò il caso di ritirarsi, e stava già andando quando D'Ambreuse, alludendo al posto di segretario, gli disse: Niente di definitivo ancora, ma si sbrighi. E la signora, a presto, vero? A Federico quell'addio parve un'ultima presa in giro. Era ben deciso a non metter più piede in quella casa, a non frequentare mai più tipi come loro. Pensava ad averli feriti, ignorando di quali larghe riserve di indifferenza disponga la gente. Quanto alla signora D'Ambreuse, le trovava un che di languido e al tempo stesso di arido, qualcosa che impediva di definirla con una formula. Aveva un amante? E quale? Il diplomatico, forse, oppure quell'altro? Martinon, magari? No, impossibile. Eppure sentiva una specie di gelosia nei confronti di lui e nei confronti di lei, un'irritazione inspiegabile. Alla fine di luglio un misterioso ribasso fece precipitare le azioni del Nord. Federico, che non aveva venduto, ci rimise in un colpo solo 60.000 franchi. Le sue rendite diminuivano sensibilmente. Bisognava contenere le spese o procurarsi una posizione oppure fare un buon matrimonio. Delorier allora gli riparlò della piccola Rock. Niente gli impediva comunque di andare a rendersi conto di persona. Federico era un po' stanco. La provincia, la casa materna, l'avrebbero rimesso in sesto. Ci andò. La vista delle strade di Nogent risalite a lume di luna immerse Federico in vecchi ricordi. Provava una sorta di angoscia, come uno che torna da un lungo viaggio. Da sua madre c'erano tutte le visite abituali di un tempo: Gamblin, Chambrion, le signorine Auger. E poi il vecchio Rock e al tavolo da gioco, di fronte alla signora Moreau, la signorina Luisa. Era una donna adesso. S'alzò in piedi con un grido. Tutti si mossero, lei restava in piedi, immobile, e i quattro candelieri d'argento posati sul tavolo accrescevano il suo pallore. Quando si rimise al gioco, le tremavano le mani. Federico, che era malato d'orgoglio, si sentì enormemente lusingato da tanta emozione. «Tu mi amerai!» Tu, fu il suo pensiero, e per ripagarsi delle mortificazioni che altrove aveva dovuto subire, si mise a fare il parigino, il mondano. Illustrò le novità del teatro, raccontò aneddoti scovati nei giornali, in una parola abbagliò i suoi compatrioti. Il giorno dopo la signora Moreau si dilungò sui meriti di Luisa, poi fece l'elenco dei boschi e delle fattorie che sarebbero stati suoi. Il patrimonio di Rock era ragguardevole. L'aveva messo insieme facendo investimenti per conto di D'Ambreuse. Concedeva prestiti a persone in grado di dare una buona garanzia ipotecaria, il che gli consentiva di chiedere supplementi e provvigioni, e il capitale, grazie a un'attiva sorveglianza, non correva rischi. Il vecchio, d'altra parte, covava in fondo al cuore un'ambizione. Voleva che sua figlia diventasse contessa, e per riuscirci senza mettere in gioco la felicità di sua figlia, non vedeva che Federico. Con la protezione di D'Ambrese gli avrebbero fatto avere il titolo di suo nonno, dato che la signora Moreau era figlia di un conte de Fouvent ed era imparentata inoltre con le più antiche famiglie della Champagne. E tale distinzione affascinava Roc, che era figlio di un ex cameriere. Andava in chiesa adesso ed era riuscito ad accattivarsi la signora Moreau con la speranza, in special modo, del titolo nobiliare. La signora però s'era guardata bene dal dargli una risposta definitiva. In breve, dopo 8 giorni e senza che fosse stato pronunciato il minimo impegno, Federico passava per il promesso della signorina Luisa e qualche volta il vecchio Roc, non troppo scrupoloso, li lasciava insieme da soli. Da lontano la vecchia Caterina li teneva d'occhio. Camminavano fianco a fianco e Federico stava dicendo: «Si ricorda quando la portavo con me in campagna?» «Com'era buono con me», rispose. «Mi aiutava a fare i budini con la sabbia, a riempire l'annaffiatoio e andare sull'altalena». Lui le ricordò il giorno della sua prima comunione e com'era carina ai vespri con il suo velo bianco e la grande candela quando sfilavano tutte intorno al coro e la campana rintoccava. Quei ricordi non dovevano avere molto fascino per la signorina Roc. Non trovò niente da rispondere. E un momento dopo: «Che cattivo a non darmi mai, mai sue notizie!» Federico addusse i suoi molti impegni. Luisa invece gli disse com'era arida la sua vita. Nessuno da vedere, non il minimo piacere, il minimo svago. Le sarebbe piaciuto tanto andare a cavallo. Poi un silenzio. Non c'era altro rumore da sentire che lo scricchiolar della sabbia sotto i piedi e il fruscio della cascata. Luisa s'era presa per lui, ancora bambina, di uno di quegli amori infantili che hanno insieme la purezza di una religione e la violenza di un bisogno. Federico era stato il suo compagno, il suo fratello, il suo maestro. Aveva dilettato il suo spirito, fatto battere il suo cuore e versato sin nel profondo di lei, senza volerlo, un'ebbrezza latente e inestinguibile. Quando l'aveva lasciata con sua madre appena morta, era stata una grande crisi tragica, in cui le due disperazioni s'erano confuse insieme. Assente, l'aveva idealizzato nel ricordo. Tornava a lei, adesso, con una specie d'aureola, e Luisa s'abbandonava ingenuamente alla felicità di vederlo. Federico sentiva, per la prima volta nella sua vita, d'essere amato. Era un piacere nuovo, che non oltrepassava l'ambito dei sentimenti gradevoli, e gli dava una sorta di pienezza interiore. Una grossa nuvola stava attraversando il cielo. Lei gli mise le mani sulle spalle per fissarlo più d'appresso e, trapassandogli le pupille con le sue, che erano verdi e di un'umidità quasi feroce, «Vuoi essere mio marito?» «Ma», rispose Federico cercando una risposta, «certamente non domando di meglio». In quel momento, da dietro una pianta di lillà, fece capolino il berretto del signor Roc. Thank you. Arrivando a Parigi, Federico non provò alcun piacere. Era una sera della fine di agosto, il boulevard sembrava deserto. Pensò allora alla signorina Rock. L'idea di sposarla non gli sembrava più così folle. Una volta strappata al suo ambiente, sarebbe diventata in breve tempo una compagna deliziosa. E poi il patrimonio di Rock lo stuzzicava. Nello stesso tempo, una decisione del genere gli riusciva ripugnante, come se costituisse una debolezza, uno svilirsi. Comunque, era ben deciso in un modo o nell'altro a cambiar vita, cioè a non buttare più il suo cuore in passioni infruttuose, tanto che esitava persino a fare la commissione di cui Luisa l'aveva incaricato. Si trattava di comperarle da Jacques Arnoux due grandi statuette policrome, dei negri simili a quelli che c'erano nella prefettura di Troyes. Luisa conosceva il marchio del fabbricante e voleva proprio quello. Federico aveva paura, tornando da loro, di cadere una volta di più nel suo antico amore. Fu occupato da tali riflessioni per tutta la sera e stava per andare a letto quando arrivò una donna. «Sono io», disse ridendo la signorina Vatnaz. «Vengo da parte di Rosanette». S'erano riconciliate allora. «Mio Dio, sì, sa bene che non sono cattiva io. E poi quella poverina, raccontarle tutto sarebbe troppo lungo». A farla breve, la marescialla voleva vederlo. Aspettava una risposta da lui. Federico chiese a questo punto notizie di Rosanette. «Ah, stava ora con un uomo molto ricco, un russo, il principe Zernukov, che l'aveva adocchiata l'estate prima al campo di Marte. Il giorno dopo era dalla marescialla. Stava in una casa nuova, con le tapparelle sporgenti sulla strada. A ogni pianerottolo c'era uno specchio a muro, una giardiniera in stile rustico davanti alle finestre. Sui gradini era stesa una passatoia di tela. Arrivando da fuori, la frescura delle scale era un sollievo». Fu introdotto in una specie di boudoir che riceveva una luce confusa dai vetri colorati delle finestre. Apparve Rosanette in pantaloni bianchi di cashmere, veste di seta rosa, collana di piastre e zucchetto rosso ornato in giro da un tralcio di gelsomino. Federico ebbe un moto di sorpresa, poi le disse che aveva quella tal cosa e le porse il biglietto di banca. Lei lo fissava sinceramente sbalordita. E dato che aveva il biglietto in mano e non sapeva dove metterlo, Federico disse «Coraggio, lo prenda». Lo prese, lo gettò sul divano e «Lei è proprio gentile, sa? Era per un terreno a Bellevue che stava pagando un tanto all'anno». Tanta disinvoltura, offese Federico, ma in fondo era meglio così. Lo vendicava del passato. «Si sieda, no, qui, più vicino». E assumendo un tono grave, «Prima di tutto, mio caro, devo ringraziarla per aver rischiato la vita. Ma non è niente. Come? Io lo trovo talmente bello». La gratitudine della marescialla lo metteva in imbarazzo. «Forse si sta prendendo gioco di me», pensava Federico. Gli sembrava d'aver finito e, adducendo un impegno, s'alzò per andare. «No, rimanga, la prego». Sedutosi di nuovo, le fece un complimento per com'era vestita. Tutti e due avvertivano come una costrizione, un ostacolo. In effetti, il duello aveva lusingato l'amor proprio di Rosanette, che credeva di esserne la causa. Stupitissima che non fosse corso da lei a farsi bello del suo gesto, aveva inventato, per indurlo a tornare, l'urgenza dei famosi 500 franchi. E come mai adesso Federico non le chiedeva in cambio un po' di tenerezza? Era un modo di fare raffinato che la colmava di meraviglia. Lamentandosi che scoppiava dal caldo, si sbarazzò della veste. Non aveva intorno ai fianchi che una camiciola di seta e inclinava la testa sulla spalla in un atteggiamento di schiava, colmo di provocanti lusinghe. Un uomo di men pensoso egoismo non sarebbe stato a riflettere sulla circostanza che il visconte o il signor de Comin o altri ancora potevano sopraggiungere. Ma Federico aveva fatto troppe volte la parte dello zimbello ai loro stessi occhi per correre il rischio di una nuova umiliazione. La marescialla volle sapere chi frequentava, con chi si divertiva, arrivò persino a informarsi dei suoi affari e a offrirgli, se ne avesse avuto bisogno, del denaro in prestito. Federico, non potendone più, prese il cappello. «Benissimo, mia cara, se la passi bene, arrivederci». Le si spalancarono gli occhi, Poi, seccamente, arrivederci. Uscendo, passò per l'anticamera. Sul tavolo, fra un vaso pieno di biglietti da visita e un completo da scrittoio, c'era un cofanetto d'argento cesellato. Era quello di Madame Arnaud. Si sentì intenerire e provava insieme un senso di scandalo, quasi di profanazione. Gli veniva voglia di toccarlo, di aprirlo, ma ebbe paura che lo vedessero e se ne andò. Il giorno dopo Federico era di nuovo da Madame Arnoux. Fu ricevuto e per consolidare i vantaggi acquisiti cominciò subito, senza preamboli, a giustificarsi dell'incontro al campo di Marte. Il caso, nient'altro che il caso, l'aveva fatto incontrare con quella donna, dato e non concesso che fosse carina. Come avrebbe potuto attirare, sia pure un minuto solo, i suoi pensieri, dal momento che era un'altra, quella che lui amava? Lei sa bene che è così. Gliel'ho detto. Madame Arnoux chinò la testa e mi ha fatto molto male dicendomelo. Perché? Perché le più elementari convenienze esigono adesso che io non la riveda più. Federico protestò l'innocenza del suo amore. Il passato doveva garantirle l'avvenire. Aveva giurato a se stesso di non turbare l'esistenza di lei, di non stordirla con i suoi lamenti. Ieri, purtroppo, il mio cuore era troppo gonfio. Meglio non pensare più a quel momento, amico mio. E tuttavia, che male ci sarebbe stato se due povere creature avessero confuso insieme la propria tristezza? Perché anche lei non è felice. Io lo so, non ha nessuno che risponde al suo bisogno di tenerezza, di devozione. Io l'obbedirò in tutto, l'obbedirò sempre, senza mancarle mai di rispetto, glielo giuro. E si lasciò cadere in ginocchio, suo malgrado, cedendo a un peso che s'era fatto dentro troppo grave. «Si alzi!» gli disse la signora. «Glielo ordino!» E in tono imperioso aggiunse che se non avesse fatto come lei voleva, non l'avrebbe vista mai più. «Dovrebbe avere un bel coraggio», replicò Federico. «Cosa ho da fare io in questo mondo? Ci sono tanti che s'accaniscono per la ricchezza, la fama, il potere. Io non ho posizione né impegni. È lei la mia occupazione esclusiva, il mio unico bene, lo scopo, il centro della mia vita, dei miei pensieri. Io non potrei vivere senza di lei, come non posso vivere senza l'aria del cielo. Non capisce, non sente come la mia anima aspira a lei, sale verso la sua e che devono confondersi insieme e che io ne muoio. Madame Arnoux si mise a tremare in tutte le membra. Oh, se ne vada, vada via, la supplico. L'espressione stravolta del suo viso lo fermò, poi fece un passo, ma lei con le mani giunte indietreggiava da lui. In nome del cielo mi lasci di grazia. Tanto era l'amore di Federico che la lasciò. La collera contro se stesso lo sopraffece ben presto. Si dichiarò un imbecille. 24 ore dopo era di ritorno. La signora non c'era. Federico restò lì sul pianerottolo, stranito di indignazione e di rabbia. Sopraggiunse Arnoux e gli spiegò che la moglie, proprio quel mattino, era andata a stabilirsi in una piccola casa di campagna presa in affitto ad Auteuil, dato che non avevano più quella di Saint-Cloud. Un'altra delle sue fantasie, ma tutto sommato, visto che a lei fa piacere, e anche a me, del resto, tanto di guadagnato. Ceniamo insieme stasera? Federico addusse un impegno urgente e si precipitò ad Auteuil. Madame Arnoux si lasciò sfuggire un grido di gioia e tutto il rancore di Federico scomparve di colpo. Non le parlò affatto del suo amore, anzi, per metterla meglio a suo agio, esagerò nel riserbo e quando le chiese se poteva tornare, lei disse «Ma certo», e gli tese, per ritirarla subito, la mano. Da quella volta le visite di Federico si moltiplicarono. Era inteso che non dovessero possedersi. Questo patto, escludendo ogni pericolo, favoriva le loro effusioni. I loro discorsi di solito riguardavano gli anni durante i quali si erano frequentati. Lui le ricordava particolari irrilevanti, il colore della sua veste quella certa volta, chi era venuto quel dato giorno, ciò che lei aveva detto in un'altra occasione. E lei, tutta meravigliata, rispondeva «Sì, mi ricordo!» I loro gusti, i loro giudizi erano identici. Sovente quello che stava ascoltando esclamava «Anch'io!» e l'altro a sua volta confermava «Anch'io!». Erano poi interminabili lagnanze contro la provvidenza. «Se il cielo avesse voluto, se ci fossimo incontrati, ah, se fossi stata più giovane, no, no, io di poco più vecchio!» E si immaginavano una vita d'amore e basta, tanto feconda da colmare qualsiasi solitudine, forte più di ogni gioia, al di sopra di tutte le miserie, dove il tempo si sarebbe dissolto in una perpetua espansione di se stessi, una vita alta e rilucente come un palpitare di stelle. Thank you.